Allora, per Emergency la cura è un diritto fondamentale che con il lavoro dell'organizzazione porta nei contesti di guerra e di povertà. Il festival declina questo concetto attraverso tre tipologie di incontri. Prima dedicata al racconto dei propri progetti, focalizzandosi su quello che sul soccorso in mare, su quello che sta succedendo in Afghanistan, sulla sanità di eccellenza in Africa. Poi ci sarà una parte invece più divulgativa e scientifica dove, grazie alla presenza di alcuni ospiti, affrontiamo il discorso della cura, della salute, dell'accesso ai vaccini, e questi hanno un taglio più divulgativo, più scientifico. A proposito di questo aspetto scientifico, ovviamente noi veniamo da un periodo di pandemia e quindi l'altra domanda che le volevo fare è: come il Covid ha cambiato l'esperienza della cura? Si affronterà anche questo aspetto durante il festival? Allora, avremo un incontro con la professoressa Capua che ci parlerà dei vaccini. La cura logicamente cambia. Emergency prima del Covid ha avuto l'esperienza di Ebola in Africa, che è stata importante per l'organizzazione, non solo per l'organizzazione, quindi questo ha permesso di offrire delle risposte in alcune situazioni anche in Italia. E poi si è dedicata con il progetto di Nessuno Escluso alla consegna di pacchi con beni di prima necessità a chi ne aveva bisogno. Certo. Quindi diciamo che la cura cambia un pochino prospettiva, perché non è solo una questione sanitaria, ma diventa proprio una questione più sociale. Si parlerà anche di Afghanistan. Sì. Il vostro personale sta ancora lavorando nel paese. Ecco, che notizie vi arrivano? Allora, le notizie sono quelle che si possono leggere i giornali. Noi in Afghanistan ci siamo da 20 anni e continueremo a stare lì, come continueremo a stare in tutti gli altri ospedali, perché chiaramente i nostri ospedali aprono tutti i giorni, qualunque latitudine e paese si trovino, quindi dovendo curare le persone non possiamo fare diversamente. In questo momento è l'Afghanistan che è al centro delle attenzioni, però in tante altre situazioni hanno bisogno e noi ci siamo. Ok, certo, quindi rimanete e date il vostro aiuto. Ultima domanda, quali ospiti ci saranno? Allora, parlare di Afghanistan, avremo venerdì alle 18 un incontro con Corrado Formigli, Francesca Mannocchi, che sono due giornalisti che hanno seguito e seguono l'Afghanistan da tempo. Con loro ci sarà anche in collegamento Paolo Giordano, lo scrittore, e il nostro medical coordinator a Kabul, Alberto Zanin. In chiusura invece Gianpaolo Musumeci di Radio 24 coordinerà un altro panel sempre sull'Afghanistan, però più incentrato proprio sul racconto dei progetti di Emergency di questi 20 anni nel paese.